Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. State cuocendo dei biscotti quando per un attimo la luce del forno ha un tremito. Niente di grave, un piccolo calo di tensione. Il portatile, grazie alle batterie, non se n'è nemmeno accorto, figuriamoci i biscotti. D'altronde, cosa potrà mai causare un'interruzione della corrente elettrica di una frazione di secondo? Beh, dipende. Nello stabilimento di fianco, dove i biscotti si fanno in grandi forni a ciclo continuo, il danno c'è. E come? Perché si è fermato tutto, è bastato quel piccolo calo di tensione per mandare in tilt i sistemi elettronici. Tocca fermare tutto, buttare qualche quintale di biscotti e ricominciare. Dalla premessa avrete capito che stasera a Mr. Kilowatt parliamo di power quality, ovvero di qualità dell'alimentazione elettrica. Io sono Maurizio Melis e dall'altro capo della linea c'è l'ingegner Michele De Negris, che è esperto di disturbi elettrici e dei loro effetti dell'ERSE, l'ente italiano per la ricerca sul sistema elettrico. Buonasera De Negris. Buonasera a lei e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Bene, insomma, l'esempio dei biscotti credo che abbia chiarito appunto almeno una delle ragioni per cui l'efficienza energetica e la qualità dell'alimentazione sono fra loro in qualche modo collegati. Ma i processi industriali sensibili a questo parametro sono molti, De Negris. Sì, sono potenzialmente sensibili alla qualità della tensione, in particolare tutti i processi che sono gestiti da dispositivi elettronici come i cosiddetti Program Logic Controller, cioè PLC, calcolatori che sono a capo, diciamo, del controllo di processi continui come la produzione della carta, la produzione dei filati ed anche la produzione dei biscotti. Certo. Beh, di fatto questi PLC, questi controllori elettronici, sono finiti dappertutto. Insomma, l'elettronica è pervasiva e questo rende anche delle produzioni che prima non lo erano molto sensibili a variazioni dell'alimentazione. Sì, variazioni dell'alimentazione che peraltro possono essere di diverso tipo. Ecco, infatti ci spieghi. Abbiamo innanzitutto una variazione della tensione di alimentazione di base che normalmente, per esempio in casa, dovrebbe essere a 230 volt, ma abbiamo delle possibili variazioni che possono arrivare anche fino al più o meno 10%. Se noi dovessimo fare un paragone medico, potremmo dire che possiamo avere una pressione arteriosa troppo alta o troppo bassa. Certo, invece di avere certo. Il classico 80-120 possiamo andare in ipertensione o in ipotensione. Benissimo. E altre variazioni di tensione che possono influenzare il comportamento di dispositivi elettronici sono tipicamente i buchi di tensione, sì, che potremmo paragonare, diciamo, a un'aritmia, un soffio al cuore, certo, nel quale alcuni battiti non vengono bene e l'onda di tensione in questo caso non è completamente piena. Ne manca un pezzettino per durate che vanno da alcuni millisecondi a alcuni periodi, cioè alcune centinaia di millisecondi. D'accordo. Altri disturbi di tensione sono le interruzioni. A questo punto abbiamo... Questo è un bel infarto. Un vero e proprio blackout, quindi per durate anche piuttosto limitate, ed è l'ischemia, diciamo, prima di arrivare, sì, al blackout, sì, in cui, sì, perdiamo alcuni battiti o alcune decine di battiti. Certo, certo. Gli altri disturbi sono però legati prevalentemente a fatti esterni. Le sovratensioni sono il colpo di fulmine che colpisce e che può provocare dei disturbi anche piuttosto importanti. Quindi abbiamo dei disturbi esterni, alcuni sono, come dire, ce li passa in qualche modo la stessa rete di distribuzione o di dispacciamento dell'energia, cioè ci sono proprio dei buchi alla sorgente. Altre volte possono essere dei disturbi che arrivano come un fulmine che casca vicino, altre volte siamo noi stessi, oppure sono gli impianti industriali stessi che producono dei segnali spuri, dei disturbi elettrici. Sì, lì bisogna stare molto attenti nella progettazione e nell'esercizio degli impianti. In realtà è proprio vero, alcuni vengono dalla rete, altri sono prodotti internamente all'impianto. Allora, come facciamo a tutelarci e quanto costa, insomma, tutelarsi da queste discontinuità? Beh, per tutelarsi ovviamente bisogna prima conoscere quali sono i disturbi da una parte, quali sono le sorgenti di disturbo e capire qual è il livello di sollecitazione rispetto alla sensibilità al disturbo. Quindi alcuni processi o alcuni apparecchi saranno molto sensibili. È ovvio che un data center è estremamente sensibile a questo tipo di disturbi, se non fosse che appunto il data center si premunisce con dei grossi gruppi di continuità. Ecco, oltre ai gruppi di continuità ci sono delle altre... Sì, certo, a seconda della sorgente, a seconda del livello di sollecitazione, a seconda della potenza dell'alimentazione, si possono utilizzare diversi dispositivi. Per le sovratensioni, che sono quelle che vengono essenzialmente dall'esterno, gli scaricatori di sovratensione sono i più tipici e sono anche i meno costosi. Proteggono da tutte le sopraelevazioni di tensione. D'accordo. Contro la mancanza di tensione ci sono filtri, ci sono dispositivi di commutazione, ci sono addirittura gruppi di continuità o gruppi motogeneratori, cioè in pratica utilizzare nello stabilimento ad alimentazione di riserva dei veri e propri generatori, delle piccole centrali sostanzialmente. Grazie De Nigris. La ringrazio io, a risentirci. Bene, ricordate che un passo avanti consiste nel progettare bene l'impianto elettrico, facendo in modo che tutti gli apparecchi sensibili siano, come dire, collegati alla stessa linea e possano essere tutelati tutti insieme. Molte informazioni le trovate su un sito, l'indirizzo è il seguente: www.pqnet.erse-web.it. Grazie di averci seguito, Mr. Kilowatt torna lunedì, parleremo dei certificati bianchi, titoli di efficienza energetica che hanno fatto scuola in Europa. Buon fine settimana a tutti.